guai al paese dagli insetti ronzanti, situato al di là dei fiumi d'Etiopia, che manda per mare gli ambasciatori in canotti di papiro sulle acque. Rapidi, andate, messaggeri, verso la nazione slanciata ed abbronzata, verso un popolo temibile da ora e per sempre, una nazione potente e vittoriosa il cui paese è solcato da fiumi. Voi tutti, abitanti del mondo, e quanti dimorate nel paese, quando si leva il segnale sui monti, rimirate, e quando suona il corno, ascoltate. Perché così mi parlò il Signore. Resterò tranquillo e mirerò dalla mia dimora qual torrido calore alla luce del sole e qual nube rugiadosa al calore della mietitura. Perché prima della raccolta, quando la fioritura è finita ed il fiore è diventato un grappolo maturo, egli taglierà i pampini con le roncole, eliminerà e butterà via i tralci. Saranno abbandonati tutti insieme agli avvoltoi delle montagne e dalle bestie della terra. Gli avvoltoi passeranno l'estate sopra di essi e le bestie della terra sopra di essi sverneranno. In quel tempo verranno portate al Signore degli eserciti offerte da parte di un popolo slanciato ed abbronzato, da parte di un popolo terribile da ora e per sempre, un popolo potente e vittorioso, il cui paese è solcato da fiumi, verso il luogo in cui si trova il nome del Signore degli eserciti, il Monte Sion.